La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati alla prima volta. Quella che state ascoltando è la canzone, il brano La fine dei vent'anni del cantautore livornese Francesco Motta. Brano che dà anche il nome all'album, premiato proprio pochi giorni fa con il premio Tenco per la miglior opera prima. Un riconoscimento importante per un artista emergente, indipendente, molto amato dai trentenni, anche perché forse in qualche modo li raccoglie e li descrive molto bene nei suoi testi. A volte è solo questione di fortuna, ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Diciamo che è nato in casa mia all'inizio, quindi tante cose le ho registrate, tante cose che si sono tenute poi fino alla fine sono state registrate in casa. I testi li ho scritti quasi tutti a Roma, a parte la fine dei vent'anni che ho scritto a Livorno. Poi a un certo punto ho incontrato Riccardo Senigallia, che ha messo, che mi ha dato una mano enorme sui testi che avevano più difficoltà. Alcune cose le abbiamo scritte proprio insieme e soprattutto è stato rispettoso verso tutto il lavoro che avevo fatto prima da solo, insomma. E com'è stato? Perché hai scelto di uscire, diciamo, come alcuni dicevano nelle recensioni che ho letto, di uscire allo scoperto con un disco da solista? Cos'è che ti ha spinto? Beh, innanzitutto il fatto che da quando ho 17 anni io non solo voglio fare musicista, ma faccio questo, a prescindere da quanti soldi poi ci faccio. Però non, nel senso, è un po' è il tuo lavoro, dici? È il mio lavoro, è la cosa che so fare meglio, non potrei fare altro, e dalla mattina alla mattina io penso sempre a quella cosa lì, quindi è un'urgenza. Che ho da sempre. Sicuramente prima c'era più urgenza che altro, ora c'è anche il fatto di avere dei mezzi e soprattutto delle cose da dire, insomma. Questo significa in qualche modo che la fine dei vent'anni coincide anche con l'inizio di un percorso, insomma, che ha delle profondità o delle cose da dire, come hai appena detto tu, diverse, che tu già cogli, insomma. Per me è andato di pari passo con magari delle cose da dire, ce l'avevo anche prima, però non avevo i mezzi, le parole giuste, le note giuste per dirle, ecco. Adesso mi sembra che, insomma, mi sembra di averle molto di più rispetto a prima. Questo disco è stato veramente molto amato soprattutto dalla critica. Qualcuno addirittura ha parlato di una sorta di cinismo nei tuoi testi. Ah, sì, io cinismo lo ricollego anche a una sorta di paura e di aggressività dovuta a insicurezza. Ero molto più cinico prima io rispetto a come lo sono ora, e sicuramente da parte mia non c'è assolutamente nessun tipo di cinismo nelle canzoni, ma c'è tantissima speranza, quindi così è come l'ho pensata io, insomma. Poi magari sicuramente qualcuno avrà da ridire sulle emozioni che provo a ascoltare i miei pezzi, ma il punto di partenza era quello che ti ho appena detto, insomma. Tu hai detto poco fa che è da quando hai 17 anni che suoni e che ti dedichi proprio alla musica, no? Dici, da quando mi alzo la mattina sono lì, penso alla musica. Volevo sapere come nasce proprio questa passione, cioè se ti ricordi cosa ti ha portato a suonare e soprattutto, per esempio, quali sono stati i primi passaggi, il primo strumento, insomma, come è iniziato? Vabbè, io ho iniziato il pianoforte, ho iniziato a studiare in una scuola che insomma faceva questo metodo che si chiama metodo Yamaha, che è per bambini che in realtà non sono ancora andati in prima elementare, quindi nonostante i miei non fossero musicisti, mi hanno mandato in questa scuola che insomma un po' ha fatto. Un'altra cosa che ha fatto è sicuramente averci avuto da sempre il pianoforte in casa, che appunto, ripeto, nonostante i miei non facciano musicisti, comunque mia sorella è musicoterapista e io suono, insomma, quindi qualcosa in casa c'era, insomma, c'era il Requiem che suonava sul disco tutte le domeniche mattina, insomma, che forse è stata una delle cose che mi ha fatto più, che mi sta facendo adesso, dopo anni, amare più il pop, perché penso che sia forse Mozart l'inventore della musica pop, insomma. A parte tutte queste fisse mie, ad un certo punto dice mia madre che praticamente, non me la ricordo bene questa cosa, ma sui 16-17 anni ho avuto un'influenza di 2-3 settimane, ho iniziato a suonare qualsiasi cosa c'era in casa e lì è successo qualcosa, non lo so, insomma, ho veramente iniziato da quel punto lì a suonare tutto quello che c'era in casa, quindi c'era una chitarra, mi ricordo che ascoltai L'isola che non c'è di Bennato, che insomma è uno degli artisti con cui io sono cresciuto, e dovuto anche alla noia dell'influenza di non poter uscire, di non poter andare a giocare a pallone e fare quelle cose lì, non mi drogavo ancora al tempo, quindi non potevo nemmeno drogarmi. Da lì ho iniziato a suonare, insomma. E poi com'è che si è aperto? Cioè, poi ci sono stati contatti, collaborazioni che sono arrivati lentamente? Come è proseguito? Poi, come diciamo, tutte le cose che avvengono a quell'età, una cosa importantissima è stata vedere che c'erano altre persone con la stessa malattia che avevo io, insomma, quindi abbiamo fatto questo gruppo insieme in cui facevamo cover, in cui all'inizio suonavo la tastiera, poi c'era questo batterista che nel primo concerto che si fece non era talmente piccolo il posto che non ci stava fisicamente lui e quindi gli altri due mi dissero vabbè, suonate la batteria, insomma, ti metti un Fantastico. rullante. E quindi da lì, diciamo, insomma, ci siamo rovinati un po' tutti insieme, perché una cosa bellissima è che tutte le persone che sono passate dai Criminal Jokers, che era il progetto che insomma avevamo, non ce n'è una che adesso non faccia o non voglia fare una vita musicista, insomma, quindi c'era una cosa forte e soprattutto condivisa che quel momento della vita è importantissimo. Ora ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. La prima volta. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, no, no, no, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Il fatto di parlare sottovoce fa sì che quando parli forte, il forte diventa fortissimo, ovviamente. Se parli sempre forte, rimane forte e basta. Quindi questa sorta di dinamica più ampia che c'è anche in questo disco è anche una cosa che ho capito anche nei rapporti personali, insomma. Quindi. E mi sembra molto più punk alla fine fare così che quello che facevo prima, che mi divertiva, mi piaceva un sacco, ma era sicuramente meno consapevole di adesso, insomma. Era meno scelto di quello che è il tono, diciamo. Per esempio, tutte le mie canzoni sono canzoni politiche. penso che dal momento, anche le canzoni d'amore sono canzoni politiche, cioè quando te decidi di metterti in una posizione, di dire una cosa, stai facendo politica, quindi mi sento di fare politica anche. Partiti da lontano e di colpo arrivare ad essere contenti, ma il colpo era forte e le note non erano giuste. E senza vincere niente, senza partecipare, rincorriamo le notti e torniamo a dormire. E le mani più grandi. Questo dunque è un estratto di un'intervista rilasciata da Francesco Motta, ex Criminal Jokers, cantautore trentenne di Livorno, al suo esordio da solista con l'album La fine dei vent'anni. Un album segnato dal tema del tempo, dall'urgenza di impegnare questo tempo, dall'impellenza di viverlo, sapendo che la fine dei vent'anni è un po' l'inizio di qualcos'altro a cui bisogna arrivare pronti. Del tempo che passa la felicità. Cantautore molto amato, dicevamo, dai trentenni e anche dai più giovani, che racconta una generazione in perenne movimento, in continuo trasloco, anche idealmente. Un'età, quella della fine dei vent'anni, descritta così da Motta. Per arrivare ad essere contenti, a dormire di giorno e mangiarsi. La questione della fortuna, diciamo, insomma, quello di che è un po' guardare in alto, un po' l'essere sognanti a quell'età, deve far fronte a traslocare due volte in un mese, insomma, cosa alla che precarietà. È successo, sì, alla precarietà, ma soprattutto a cose anche pratiche da fare, insomma, sì. Averci poco tempo per far tutto, insomma, quindi averci tempo per sognare ancora, però essere in una fase in cui se prima non c'era un cazzo da fare, ora ci sono veramente tante cose anche pratiche, scomode, stancanti da fare, insomma è assurdo come in realtà siamo al punto massimo forse del farsi il culo in maniera pratica, ma anche di doversi fare il culo in termini di sognare, ecco, insomma, quindi per me in questo momento è il picco massimo delle energie che ci sono in una persona. Abbiamo vinto un'altra guerra, non quella che volevi tu. Ora e per sempre ti accontenti ed io non parlo quasi più. Hai presente quelle volte che vai a letto e non sei stanco, ti passa un treno sopra gli occhi, ti risvegli e sei contento. Non lo dico per snobismo, ma lo dico perché proprio per una questione di tempo, ma anche per ignoranza, non lo so, sinceramente ascolto veramente pochissima musica, o almeno a volte mi fisso su delle cose e ascolto veramente sempre quelle. diciamo che tutti i gruppi, insomma anche le persone che conosco, è un periodo in cui a molti sta andando bene, di quei molti a cui sta andando bene in una buona percentuale mi piacciono anche a me, stanno scrivendo delle belle canzoni, non c'è più la paura di questo mostro della musica pop, che penso sia una bella cosa il fatto che non ci sia più paura. Altre cose invece fanno sì che in realtà qualcuno si dovrebbe vergognare un pochino di più, e niente, così la penso. Quindi secondo me c'è anche molto... Non chiedermi nome perché non... No, non mi interessava quello, era più capire, insomma... Cioè, secondo te ci sono più possibilità rispetto a anni fa, quindi mi sembra di capire da quello che hai detto... Possibilità non lo so, però diciamo c'è più voglia di farsi capire, insomma, quindi questa... Se laddove prima, per esempio, negli anni... 90, ma anche quando ho iniziato a suonare io c'erano molti meno gruppi che cantavano in italiano, anche perché veramente, cioè, io mi vergognavo personalmente quando ho iniziato a suonare a cantare in italiano, come tantissimi anche più grandi di me. Questo lasciare da parte la vergogna ha portato sì in alcuni casi a mettere il cuore sul tavolo, altri a far cantare in italiano gente che non doveva cantare in italiano, insomma, quindi così la penso. Riguardo ovviamente alla fruibilità dell'italiano, ovviamente ma questo non c'entra niente con il mio percorso, è anche più vendibile, e quindi è chiaro che ora ci siano molti più gruppi forse rispetto a prima che ci campano, eh. Perché ti vergognavi a cantare in italiano, per una questione proprio di metrica o proprio perché era la lingua che ti metteva a disagio? Perché ti mette a nudo l'italiano, insomma, perché è una lingua scomoda, perché tutti ti capiscono e quindi non c'è trucchi nel mezzo, il motivo per cui a mio parere appaga molto di più, insomma, cantare in italiano. Ecco. Un'altra, poi chiudo l'intervista, un'altra cosa che volevo chiederti ha a che fare con le due città, diciamo, chiave, no? della tua vita, insomma, Livorno e Roma, e hanno molto influenzato queste due città il tuo disco? Ha più influenzato Roma, Livorno, no, cioè sinceramente no, non è una città che amo, non è una città che a me piace, è solo dovuta al fatto che ci sono degli amici e i miei genitori, ma con Livorno non c'ho niente a che fare, forse un po' più con Pisa, che è la città dove ho vissuto per più anni. Roma la amo per tutti questi motivi che ti ho detto, e in più amo la città. È tutto, vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete potete riascoltare questa puntata, ma anche tutte le altre puntate in podcast, venite sulla pagina di Radio 24 e cercate La Prima Volta, oppure venite a cercarci sulla nostra pagina Facebook La Prima Volta - Radio 24, o se volete potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Grazie come sempre per essere stati con noi, per quello che ci scrivete, per come partecipate. Ci sentiamo domenica prossima, sempre attorno alle 23. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.